24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Il presidente del Consiglio italiano oggi è un allenatore, è l'allenatore di una squadra dove ci sono giocatori straordinariamente forti che però non si parlano in campo, si passano raramente la palla, il clima negli spogliatoi è abbastanza delicato e tutti i lunedì, al processo del lunedì, c'è una selva di commentatori che dice che questa squadra retrocede. Però c'è una novità rispetto al passato, anzi ce ne sono due. Una è che questo allenatore c'ha la testa dura e va avanti senza mollare di un centimetro. Ma la seconda è che per la prima volta... Avete preso per un coglione? Ma no, sei eroe! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, sei eroe! Avete preso per un coglione sotto la verga! L'allenatore nel pallone, ma quante volte l'ho visto questo film? Io forse 15 volte. Poi a spizzichi e bocconi. Te lo ricordi Peter Biscope? Aristoteles, eh? Anche il secondo hai visto, ma Aristoteles, eh? La scena finale. Ma avete preso per un coglione, mi fa male. Abbiamo l'allenatore con uno spogliatoio un po' diviso, la gente, i giocatori che non si passano la palla, il clima un po' quello che è. Insomma, sembra l'Inter l'Italia, sembra l'Inter dei bei tempi, secondo Renzi, Però l'allenatore ha la testa dura, l'allenatore ce la fa, l'allenatore è quello che ci crede, quello che crede più di tutti. Sì, l'Ocse dice che siamo l'unico dei 7 grandi paesi europei in recessione, ma va all'Ocse. Gufi, rosiconi all'Ocse. Oggi Giannelli fa la vignetta migliore, eh? Il figlio di Renzi va da lui e fa: babbo, e che è l'Ocse? Una specie di gufo, gli risponde Renzi. Vabbè, questo è 24 mattino, sono le 6:36 minuti in punto. Saluto Miriam Lucchetti in redazione. Che entusiasmo. Saluto Miriam Lucchetti in redazione. È di là del vetro e si agita un po' di più. Peter Bescapè, regia, dai, apriamo il Parlamento, perché qua subito dobbiamo mettere... Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, Vincino, eccoci qua. Tu l'hai visto l'allenatore nel pallone? Buongiorno. Come l'hai visto l'allenatore nel pallone qualche volta? Quello di Nino Banfi? No. Dai, credo no. Di no. Credo di no. L'allenatore nel pallone. Mi è mancato, guarda. Cioè, via col vento, Gandhi e l'allenatore nel pallone. Sulle... Ce l'avevo altri io. Vabbè, vabbè. Allora... Però Vincino, qua bisognerebbe mettere una musica un po' di sottofondo, perché vorrei salutare, vorrei accogliere io stavolta la nostra direttorissima Aurora Lussana. Senti come suonano le cornamuse della Scozia quasi libera. Alba libera. Non ce la fa, non ce la fa. Non ce la fa. Non ce la fa la Lussana o la Scozia? No, la Scozia. Ah, la Scozia non ce la fa. Quello adesso si sono mossi tutti, c'è la regina che va là. No, guardate che la regina che dice pensateci bene, forse è il colpo mortale per la Gran Bretagna, per l'Inghilterra, No. Quell'altro dice poi c'è la separazione per sempre. No. Ma chi quell'altro? Cameron, Cameron. Per tre punti non ce la fa, guarda. Vabbè, vabbè, fatemi sentire queste cornamusa, perché insomma, Aurora, qua dobbiamo accoglierti, Noi no, io non tifo per nessuno, ma in tuo onore, senti qui. La Braveheart. Aurora, com'è il clima? Cioè, senti un po'... Adesso stavo dicendo eccitata, sì. Magari no, quello no, però. No, vabbè, ma insomma l'autodeterminazione dei popoli è un diritto internazionale, noi siamo sempre al fianco di tutti i popoli che lottano per la loro autonomia e dunque se la giocano gli scozzesi. Io credo che invece la regina abbia avuto un comportamento straordinario, lei che è lì anche per grazia di Dio, sì. Pensa a te, insomma, si è comportata a differenza di una Boschi qualunque che ha impugnato il referendum per l'autonomia del Veneto. Lei comunque, insomma, ovviamente essendo anche regina degli scozzesi, aspetta che abbasso, che sì. C'è, cosa c'è? Quella è una pecionata, il referendum del Veneto è un imbroglio colossale. Cos'è che ascolti? No, che c'avevo. Cos'è che c'è? Cos'è che ascolti? No, niente. Ecco, no, stavo sentendo. Allora, scusa, no, c'avevo acceso delle robe, aspetta che ti sento meglio. C'hai il tostapane acceso, no. Cosa stai facendo? Cosa fai? No, c'avevo in giro uno scozzese con la corna musa. Aspetta, ecco, sì. Allora, ti dormiva in casa. No, vabbè. No, a parte che poi oggi c'è un intervento di, pensate un po', di Letta sul Corriere. È vero, Enrico Letta. Che come l'attentato a Sarajevo 100 anni fa, no, dal quale poi insomma ti fa discendere sì. L'inizio della prima guerra mondiale. Gli ha fatto male essere stato mandato via. Esatto. Invece, siccome Vincino non è tanto preparato sul calcio, hai lui, io invece questi B-movie li adoro, mm-hmm. E li ho visti tutti quelli lì del Lino Banfi, anche l'ultimo sì. Che ha fatto qualche non anno. Sono preparato sul Banfi, non sul calcio. Sul calcio, di calcio. Chi ama il calcio. Come il referendum Veneto è una pecionata colossale. Sicilia se ti portano via i soldi, i veneti. Senti lì Vincino aggrappato al Veneto, guarda, perché se gli porta via i soldi. Non è che hanno votato web in 20.000, dai. No, sì, effettivamente, dai, Aurora, quello del il sondaggio lì online del Veneto, ma dai, su, è stata una buffonata, dai. Ma no, come quelli di Sky, no. Quelli di Sky sono le pensionate peggiori. No, ma no. Ma infatti sulla Padania noi raccontiamo quello che ha fatto il Consiglio regionale del Veneto e il presidente della Giunta Lombarda del Veneto, Luca Zaia, quella roba lì del sondaggio online, carini, simpatici, ma non è che io ti ho aperto il giornale, non so voi. Comunque, torniamo alle cose serie. Lino Banfi, l'allenatore del pallone. Sì. A me Renzi mi evoca proprio il suo emulo, te lo ricordi, il Prandelli, l'allenatore sacrestano, impegnato nell'antirazzismo, tutte quelle robe lì. Come quelle robe lì? Ma cos'è l'antirazzismo? Cioè, quelle robe lì, dai. Ma dai, su che i calciatori che vincono, che ci sono adesso lì col Conte, visto che nazionale che il ci abbiamo. Il Conte, no? Col Conte. Hai capito? Dai. Analisi calcistica di Aurora, caro Vincino. Ma no, dai, Renzi c'è un po' quell'atteggiamento lì da Prandelli, da sacrestia, così che poi non ce la fai, non vinci. Tutte operazioni mediatiche, ti ricordi che mangiava la banana insieme, sì, quelle robe dove vai. Ci vuole, Rocco, cosa ci vuole invece? Qui abbiamo messo insieme tutto. Siamo partiti da Renzi, siamo arrivati alle cornamuse, siamo scesi a Optipo. Ma sì, è un disastro. Ma scusa, tu Vincino, però tu il guaio della Scozia lo sai qual è? Borghezio. L'intervento di Borghezio l'ha rovinato per sempre. Ha convinto 50.000 inglesi. Scozzesi a votare. Ma posso farvi una domanda? Ma voi siete favorevoli al divorzio? Divorzio di che? Della Scozia o il divorzio? No, il divorzio fra esseri umani. Ma certo, sì, ma voglio dire, allora, ma che c'entra? No, ma che c'entra? Ma i confini, chi è che... Ma no, che c'entra? No, i confini li ha decisi Dio? Ma no! I confini si mutano. Con il consenso della gente si può fare quello che vuole. Vabbè, ma adesso si voterà. È un divorzio consensuale. Un divorzio, capito? Gli scozzesi divorziano. Ma vicino c'è un pozzo nel mare del nord che è così interessato. Non lo so. Non lo so, c'hai un pozzo nel mare. Con il consenso della gente. No, te lo spiego, Aurora. Deve aver letto oggi Nicholas Farrell. sul giornale, sul giornale, che scrive in maniera veemente, lui da inglese: ma scozzesi, andatevene via, siete peggio dei siciliani in Italia. E quindi Vincino deve avere letto questo. E allora, certo, Vincino allora parla, ma lui l'autonomia ce l'ha addirittura prima della Costituzione italiana del 46, no, per evitare però che abbiamo la lottato per la secessione con la mafia. Abbiamo dei martiri, Canepa è stato ammazzato là, come dire, non ma è tutti ci abbiamo, ma che vogliamo, no, nel 46 avete l'autonomia, perché sennò voi ve ne andavate con la mafia, con l'America. Vabbè, e allora pensate un po', andavo con l'America, hanno concesso lo statuto. E pensate, cari ascoltatori, che Aurora Lussana non è scozzese, Vincino non è inglese, eppure vedete questo dibattito come può appassionare. Tra l'altro, sapete la cosa che ho letto sul Fatto Quotidiano? Questa, Aurora, non me la puoi far passare. Caro Vincino, sai che succede? Che in Scozia voterà chi vive in Scozia. Ci sono 400.000 pakistani, indiani, del Bangladesh, che decideranno se la Scozia deve essere indipendente oppure no. Cioè, capisci? Ma scusa, ma la nostra patria è un referendum quotidiano. Noi eleggiamo la nostra patria ogni giorno. C'è un referendum quotidiano, il fatto di appartenere o meno a un'identità, a una nazione. Sì, sì. Ma loro sono in Scozia, adesso, a parte gli scherzi, hanno o no il diritto di autodeterminarsi? Evidentemente sì, se votano, è stato deciso. È un divorzio consensuale. Poi non si capisce perché l'America, benedetto, tutte le secessioni del mondo, penso al Kosovo, che lì era una minoranza islamica che è diventata maggioranza e poi ha fatto la secessione, ha benedetto o no anche la secessione del Kosovo, l'America. Sì, sì. E invece no, gli scozzesi non gli va bene. Allora, vabbè, ma parliamoci chiaro, tu pensi alla Scozia, ma sogni la Padania, questo no, io sono... dai su, ma dillo, ma dillo. Ma sì, ma quando ci sarà l'autodeterminazione dei popoli non festeggeremo. Vincino, è questa la cosa, aprire il vaso di Pandora, la Scozia per i padani. Ma nemmeno questo, perché poi vuol dire la Cecoslovacchia si è divisa e cosa, tutti tranquilli. Ma fu una secessione di velluto, mi sembravano tutti cecoslovacchi, invece no, ma io pure in Jugoslavia mi sembravano tutti jugoslavi, invece erano tutti diversi. Ma so cose tranquille, non è queste cose qua, non è che, però io devo dirti, secondo me non vincerà, per pochissimo, poi può essere che mi sbaglio, non è che io non ci azzecco quasi mai, quasi sempre, però vabbè. Te lo devo chiedere che voi avete letto tutti i giornali già e io ma che letto tutti i giornali? Tu hai una pila di giornali davanti, ho capito, pure, ma mi sveglio alle 5 mi sveglio alle 5 arrivo qua alle 5 e mezza lo so. Allora, però, dopo il traffico, dopo la segreteria telefonica, vorrei capire un attimo da Vincino Aurora Lussana. Di Aurora Lussana sappiamo già cosa ne pensa, ma Vincino, tu che hai scritto la cavalcata di Renzi, ora mi dovrai dire che succede, questo allenatore che l'Ox e bastona, siamo in recessione, andiamo male, siamo in deflazione, eppure lui dice io non mollo. Ecco qua, da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna, perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. 24 mattino. Allora, devo mandare mio figlio all'asilo, mi è stato detto che i primi saranno quelli che sono figli di disoccupati, io che pago le tasse, no, devo aspettare, forse non ce lo potrò mandare neanche, bell'Italia. Voi del Trentino, anarcotizzate Alino! Ciao Milan, è vero che siamo arrabbiati e arrabbiatissimi, ma questo in buona parte lo dobbiamo a te, alle tue trasmissioni. Tu sei molto bravo, però dai sempre cattive notizie, notizie brutte, notizie angoscianti, e ci rovini la giornata. Allora Franco, Milan, ti dico questo. Questa gente politica non sono altro dei parabutti, fannulloni, delinquenti e ladri. Prendo 1.200 euro al mese da gennaio a oggi, mi stanno tirando dalla pensione 80 euro al mese. sono come i proci nella casa di Ulisse, si sono infilati e mangiano, hanno bloccato il paese, non si fa più niente. Stanno tagliando l'erba ai bordi delle strade, poi lasciano lì l'erba e l'immondizia. Italiani, siamo sporchi, che turismo vogliamo fare? Cambiamo! Non ti fare troppe illusioni, perché per fortuna è rinata la grande Inter, la grande Inter di Regno Guerra, che vi farà neri a voi e al sarcofago di Arcore. Buona giornata, dottore. Vabbè, è tornata l'Inter di Herrera, Vincino, questa te la ricordi te, l'Inter di Herrera? Sì, l'Inter di Herrera me la ricordo. Ma cosa è rinata che diceva questo qua? Non l'Inter, l'Inter, l'Inter di Herrera. Come si vergognasse, sì. No? No, ma tu invece, Vincino tira il Palermo tu ovviamente. Esatto, lascia perdere, non ne parliamo, no, di altro. Guarda, va bene, non... ma perché? Che ha fatto ieri? Perché giocava ieri sera? Ha perso. Fammi vedere qua. A Verona. C'ho la Gazzetta. Per perdere a Verona, poi c'è. Che botta. Un disastro immane. Mamma mia, quanto avete perso? Non sapevo niente. No, poco, 2-1. Poco? Ma avete perso? Poco, Aurora, ha perso poco. Quello che perde 7-1, 7-0. Ho capito, sono sempre tre punti. Sono sempre tre punti. Sono sempre tre punti, però dipende come li guardi. Vabbè, come dici? No, come dire, va bene, ma Renzi è come i governi, come dire, il ciclo economico è un'altra, sì, storia, non dipende, sì, dai governi. Vabbè, comunque allora prima di Renzi ti faccio sentire Borghezio, perché stai perdendo tempo sul Palermo, non ci interessa. Borghezio sulla Scozia, Borghezio. Cari cittadini scozzesi, sono Mario Borghezio, europarlamentare. Eccolo. La Lega Nord è un movimento che da sempre si batte in tutta Europa per la difesa. Aurora, e intanto vedi il contatore degli inglesi che votano, degli scozzesi che votano. No, voglio stare con l'Inghilterra. 1, 2, 3, 4, 5. Ha parlato Borghezio. Aurora, è qui. Sì, ha fatto anche l'appello in gaelico. Sì, l'appello in gaelico. Sì. Vabbè, lasciamo. Vincino l'appello in gaelico di Borghezio. Ma quando studia il gaelico, Borghezio? No, ma una solida cultura, Borghezio. Uno che la sera si addormenta leggendo De Benoit. È una persona che, insomma, guarda che ti stupirebbe. Sì, sì, sì. Cioè, si addormenta leggendo la copertina di De Benoit. Proprio. Borghezio, no. Allora, il discorso è questo qua, che adesso non abbiamo capito bene se siamo monitorati o tutorati dall'Europa. Fatto sta che mi hanno detto che ormai Renzi va su da Napolitano, gli dice quello che ha in mente di fare. E chi te l'ha detto? Economico. Io avrò due informatori, no? Porca miseria. Non è che ce ne avrai solo te. No. A Radio 24. Ecco, anche che noi è la seconda radio dopo Radio Padania. Sì, Radio Padania, sì, è sempre nel mio cuore, però devo dire che anche Radio 24 parte qualche trasmissione un po' sgrausa, sì. Allora, tipo la Zanzara, sì, sì. Ovvio, praticamente succede che lui, Renzi, va su al Quirinale, sì, incontra Napolitano, più o meno decidono da farsi e poi hanno via libera da Draghi. È così, Vincino? Tu che hai informatori ovunque? Come dire, che per ora stanno andando tutti da Napolitano perché non si capisce niente e questo qua va bene, no? Comunque, io ero un attimo sulla storia là, che oggi secondo me dovrebbe saltare Violante e Bruno per sempre, cambiamo i cose. Ma chi, no? Se ne non frega? Lo vuole. Come dire, chi se ne frega, ragione anche tu. No, ma nel senso, secondo te gli italiani sono interessati a questa cosa? No, della... gli italiani non sono interessati. No, ma io ti volevo capire, che ne pensi di Renzi, cioè che tu hai scritto la cavalcata, si è fermata questa cavalcata o no, o continua? C'ha un attimo di una fase di stallo, no? Ieri è un disastro là, con Orlando, quei due là, insomma, era una pessima immagine della Democrazia Cristiana fallita, messa insieme, però è il momento di stallo, perché non dipende da loro, questo è il punto. Peraltro, come dire, se facesse le cose serie che doveva fare, no, ancora non ha chiuso nessuno degli 8.400 cose, appunto. Le province fanno questa elezione di secondo grado, che è una cosa, le province sono più forti di prima, continuano a esistere, a cosare le regioni che sono il vero disastro dell'Italia attuale, totale, no? Che bisognerebbe abolire le regioni tutte meno due, no? Trentino e Sicilia, no? Che ovvio, sono le uniche. Ovvio, che no, merito, la tutte, no, ma è tutta la Sicilia, perché la corruzione che ha portato la regione Sicilia. Vabbè, ma la corruzione, ma devo chiudere, Aurora, la ricetta! Non mi hai dato la ricetta! La ricetta? No, non c'ho a casa niente, devo andare a fare la spesa. Ecco, vai a fare la spesa. Di campagna mia. E allora la prossima volta, ricetta scozzese. Ciao, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qui alle 7:18 minuti. Noi e voi, debosciati amici miei, che fate? Siete già in pista? Ricordate che oggi parleremo di quello che succede tra l'Iraq, la Siria, la lotta all'ISIS, allo Stato Islamico. Questa domanda che c'è di fondo, ma bisogna trattare con i terroristi, perché sapete che abbiamo degli italiani, degli ostaggi che sono in Iraq, e sapete che purtroppo alcuni sono stati uccisi, due americani e un inglese negli ultimi tempi. E la domanda solita, canonica, è quella: ma bisogna trattare, pagare i riscatti? E poi la opzione militare, quella giusta? Sarà con noi il vice ministro agli esteri, Lapo Pistelli. Avremo anche Domenico Quirico, inviato della Stampa. Ricordate, è stato tenuto per vari mesi prigioniero in Siria. E poi avremo Massimo Fini, nostro amico commentatore del Fatto Quotidiano. Questo dalle 8:15, ora però tuffiamoci nella lettura dei quotidiani. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale. Vabbè, questa ci sta sempre, eh? D'altronde è la 72esima settimana decisiva per la riforma elettorale, e quindi a Peter Bescapè è scappato il Benigni. No, andiamo a leggere i giornali, va. Allora, in questo martedì 16 settembre, i titoli sono molti, declinati al giudizio impietoso dell'OCSE sull'Italia in recessione, e questo è il titolo del Sole 24 Ore. Per esempio, OCSE: Italia in recessione, eurozona crescita debole, mentre Repubblica: l'OCSE gela l'Italia alla crescita peggiore d'Europa. Per il Messaggero: l'Italia non cresce, sfida all'Unione Europea. Le buone notizie pare che arrivino dalla Stampa, questo è il titolo di prima pagina. L'ipotesi del governo: tasse, un aiuto agli artigiani. Il Giornale invece: basta aumenti IVA, è quello che ieri prevedeva il Messaggero. Corriere della Sera invece si concentra sulla stallo alla Consulta, le elezioni dei due giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento. Il caso Consulta non è chiuso, questo è il titolo di prima pagina. Anche il Fatto Quotidiano: rivolta contro Renzusconi, mentre Libero: Renzi prende 1-0 e un 4. Lo 0 è quello dell'OCSE, il 4 è è lo 0 perché il PIL crollerà a 0,4%, questa è la previsione messa su Libero, dunque 0 e 4. Questi sono alcuni dei titoli, ma voglio partire dalla notizia che ha gettato nella più cupa disperazione Veronica Lario. La notizia è pubblicata solo dal Corriere della Sera in prima pagina, sono Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. Brutte notizie, pessime notizie per Veronica Lario, che dovrà accontentarsi di 2 milioni di euro al mese, 2 milioni al mese come assegno di mantenimento da Silvio Berlusconi. Infatti gli avvocati di Berlusconi sono riusciti a fare abbassare in appello l'assegno di mantenimento da 3 milioni, pari a 36 milioni l'anno, a 2 milioni. In pratica, in totale, Berlusconi ha avuto uno sconto di 36 milioni rispetto ai 108 che gli doveva, ne dovrà dare 72. Sempre se la matematica mi assiste a quest'ora del mattino. Comunque fate 108 meno 36 e via. Sapete farlo anche voi. Comunque 36 milioni in meno A saperlo prima, scrive il Corriere, magari Berlusconi avrebbe anche potuto sorvolare sul carattere di Balotelli e evitare di venderlo a Liverpool. E qui commento mio. No, allora meno male che invece non l'ha saputo prima e l'abbiamo cacciato a pedate Balotelli. Comunque, l'ordine da parte della Corte d'Appello Civile di Milano è di rinunciare per Veronica Lario a 36 dei 108 milioni che l'ex marito le aveva intanto dovuto versare nei 3 anni di separazione. I giudici d'appello ritengono troppi i 3 milioni al mese che le erano stati assegnati. 2 al mese possono bastare. E dunque 2 milioni di euro per Veronica Lario. A proposito di soldi, ci spostiamo dall'ex presidente del Consiglio all'attuale presidente del Consiglio, perché Marco Lillo sul Fatto Quotidiano racconta che Matteo Renzi ha depositato, un po' nel disinteresse generale dell'opinione pubblica, la propria dichiarazione dei redditi. Lo so che volete sapere quanto guadagna, quanto dichiara il presidente del Consiglio Renzi. Ebbene, intanto è più povero rispetto a prima, perché l'anno precedente, nel 2012, dichiarava 145.272 euro, aveva infatti i diritti per la vendita di alcuni libri che ha scritto, e tra l'altro dalla Mondadori. Renzi più povero ora senza i soldi di Mondadori, così Marco Lillo. Infatti da 145.272 euro nel 2013 il suo reddito è sceso a 98.961 euro. Mancano dunque 47.000 euro rispetto all'anno precedente, dovuti alla fine della produzione libraria. Invariati redditi da sindaco pari a 90.962 euro, crollati invece i diritti d'autore per i libri. Dunque questa dichiarazione dei redditi sono relative allo stipendio da sindaco di Renzi, visto che anche quella del 2013 è relativa all'anno precedente. Ma è ancora più interessante, racconta Marco Lillo, invece la famiglia Renzi, che ha dimostrato una trasparenza invidiabile. Solo il fratello più piccolo, Samuele, che è pediatra in Svizzera, dice di non avere l'obbligo di dichiarazione, visto che è iscritto agli registri degli italiani residenti all'estero, mentre la sorella maggiore Benedetta di Renzi dichiara un reddito di 21.064 euro guadagnati come co-co-co della società di famiglia, la E26. E anche la sorella minore Matilde Renzi, 30 anni, è una co-co-co dell'azienda di famiglia, dichiara 12.181 euro. Il Fatto Quotidiano qui fa un po' una punturina a Renzi famiglia, a dire: ma come, la società fattura 1.965.000 euro nel 2013, ma non è molto generosa con le sorelle Renzi, collaboratrici co-co-co. Vabbè, lasciamo la questione soldi. E veniamo, se volete, alla questione produttività o lavoro del Parlamento. Sapete che da ieri La Stampa ha detto e ha scritto che Renzi vuole lanciare questa proposta, che per la verità i presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, avevano annunciato in pompa magna il primo giorno del loro insediamento, cioè faremo la settimana lunga, cioè lavoreremo perfino il lunedì e il venerdì. Udite, udite. Eppure non sono riusciti fino a questo momento. Ebbene, Renzi ora vuole stanare su questo il Parlamento. Lavorate di più. Allora Mattia Feltri scrive un articolo a pagina 7 della Stampa: onorevoli, lavorate anche di lunedì, è una missione impossibile delle Camere, racconta Mattia Feltri, che va a sondare il parere di Pasquale Laurito, conosciuto come Velina Rossa, cioè che è la nobilissima memoria del Palazzo del Potere, e dice: ci hanno provato tutti e non ci è riuscito nessuno a far lavorare il lunedì e il venerdì il Parlamento. Tanto che il Messaggero racconta con Claudio Marincola le classiche scene dei trolley che sono posizionati il giovedì attorno all'ora di pranzo nel punto strategico, perché giovedì subito dopo pranzo il parlamentare, trac, trolley in mano e via verso l'aeroporto per tornare alle destinazioni in varie parti d'Italia. E allora l'allarme del governo è proprio questo, e questo è il titolo del Messaggero: lavorano 2 giorni e mezzo a settimana tra bagarre sulle nomine, rischio ingorgo. Il ministro Boschi ora dice: chiederemo al Parlamento di darsi più da fare. In media, secondo Palazzo Chigi, che pare avere individuato il prossimo nemico mediatico, attenzione, Eccolo qui, il prossimo nemico mediatico pare proprio questo, il parlamentare fannullone che lavora solo 2 giorni e mezzo a settimana. Mentre ragazzi, sulle province, 72esima settimana in corso per l'abolizione delle province, no, perché mi dicono, ma le province sono state abolite? E no, perché tra il 28 settembre e inizio ottobre si andrà al rinnovo delle nuove province, solo che adesso non votiamo noi elettori, voteranno i consiglieri comunali dei vari comuni delle province di riferimento, voteranno i consiglieri provinciali. Cosa sta succedendo? Lo raccontano tutti i giornali da vari giorni, sta succedendo la classica spartizione di poltrone, il PD vuole questo, Forza Italia vuole quell'altro, SEL vuole di qui, Fratelli d'Italia vuole di là, il Movimento 5 Stelle non credo, perché loro alle province ce le vogliono abolire, quindi non si sono mai candidati. Comunque c'è tutta una spartizione, come dire, mettiamo questo alla presidenza di qui, mettiamo di là. Eccolo lì, il titolo di Italia Oggi: le province non sono state abolite. Ma come? Ma come? E allora vedete che si può continuare a contare. E a proposito di province, vince il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare della giornata. Lucio Musolino, oggi sul Fatto Quotidiano, a pagina 9, tenete ben strette le mani sul volante se state guidando, province a Vibo Valentia, ecco l'accurduni degli impresentabili bipartisan. Racconta Lucio Musolino che tra i candidati a consigliere provinciale della prossima provincia di Vibo Valentia c'è anche un incandidabile, Salvatore Vallone, ex assessore di un comune sciolto per mafia. Ma poi 2 candidati alla presidenza, Sergio Rizzo del PD e Giuseppe Raffaele dell'UDC NCD, 3 aspiranti consiglieri, Giovanni Macri, Carmine Mangiardi e Pasquale Fera, sono coinvolti in un'inchiesta su presunti fondi illegittimi elargiti a tutti i gruppi politici della provincia dal luglio 2010 al febbraio 2012. Insomma, per la tornata del 28 settembre in campo indagati e addirittura, scrive il Fatto, amici di boss. Mani sul volante per questo articolo del Fatto Quotidiano. A Vibo Valentia arriva l'accurduni degli impresentabili bipartisan. Saluto Andrea che su Twitter ci fa sapere, grazie a Miriam Lucchetti che me lo segnala, che la Veronica comunque guadagna il doppio di Ibrahimovic e pare che non sia capace di fare colpi di tacco come il grande Zlatan. Ma come si fa a ascoltare una persona così di prima mattina? Ma chiuditi a casa e statene a casa! Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Questa non lo so perché mi fa sempre ridere. Vabbè. Allora siamo qui, l'Ocse, c'è poco da ridere in questo caso, l'Ocse ci dà una bella maglia, la maglia nera. La maglia nera per quel che riguarda le previsioni di crescita del PIL del 2014, questo è il titolo del Sole 24 Ore, Italia maglia nera del G7 per l'Ocse, cioè tra i 7 grandi dell'Unione Europea siamo i peggiori per le previsioni dell'Ocse, come racconta Marco Mussanè a pagina 3 di crescita del PIL. C'è da dire che qui subito tutti guardano a Renzi con grande attenzione. Giannelli oggi ne fa una vignetta straordinaria in prima pagina del Corriere della Sera, cioè un bambino, il figlio, che va da Renzi e dice: babbo, e che l'è l'Ocse? Una specie di gufo, gli risponde un Renzi un po' attapirato su una poltrona. Sta di fatto che però la vignetta di Giannelli ci azzecca, perché secondo Alberto Gentili sul Messaggero il retroscena, il racconto di Matteo Renzi e i suoi è proprio questo come reazione. I gufi esistono anche all'estero, così ha detto Matteo Renzi ai suoi collaboratori una volta che ha saputo delle previsioni dell'Ocse. Pessime previsioni che non lo fanno arrabbiare più di tanto, racconta il Messaggero. A Palazzo Chigi i consiglieri economici masticano amaro, qualcuno dice noi abbiamo altri numeri, qualcun altro parla di previsioni fatte da istituzioni che sbagliano tutti i dati e quindi non sono particolarmente autorevoli. Il Premier invece da una parte reagisce piccato, appunto evocando i gufi che esistono anche all'estero, ma la crescita arriverà, le riforme le abbiamo messe in cantiere, li smentiremo. Dall'altra parte legge nei dati dell'OCSE una palla alzata a suo favore, visto? È la prova che con il cieco rigore di bilancio si muore di recessione. Serve una scossa, servono politiche europee espansive. A Bruxelles ci faremo sentire e valere e difenderemo l'interesse nazionale. Questa, secondo il Messaggero, è la reazione di Matteo Renzi ai dati dell'OCSE. Secondo Maria Teresa Meli, che ogni giorno fa il punto, il retroscena di quello che succede appunto attorno a Matteo Renzi a Palazzo Chigi, Renzi riparte, ora le riforme tutte insieme. In qualche modo è una risposta a chi come Marchionne gli diceva faccia, scelga tre cose e le faccia. Invece le riforme hanno un senso solo se si fanno tutte insieme. Questa è la linea di Matteo Renzi, che dice: io non prendo ordini da nessuno, men che meno dall'Europa, non si può stare neanche appresso ai giornali, perché delle molte cose che abbiamo fatto non è rimasta traccia sui quotidiani. Un tassello dopo l'altro riusciremo nell'impresa, continua a dire Renzi ai suoi, e l'Italia non fallirà. Le previsioni fosche non lo fanno arretrare, prendo sempre con le molle qualsiasi previsione necessariamente pessimistica. La situazione è complicata, va gestita con grande serietà, ma gli avvoltoi se ne stiano a casa. Insomma, gufi, avvoltoi. Come vedete, l'idea è questa. Oh, ieri il Messaggero lanciava questa proposta, che sarebbe allo studio del Ministero dell'Economia. Più IVA. L'IVA, quella per le l'IVA speciale, quella al 4% per pasta, pane, latte, giornali, riviste e tantissimi altri prodotti, potrebbe essere alzata in Europa, per esempio, al 5%. Ovviamente subito si è alzato il grido di dolore di chi dice no, basta gli aumenti dell'IVA. Questo è il titolo, per esempio, il giornale oggi titola così in prima pagina: basta aumenti IVA, l'ipotesi di alzare le aliquote dal 4 al 10%, i commercianti sono già in rivolta. Ma La Stampa invece, con Alessandro Barbera, scrive una buona notizia se confermata, un po' in contrasto con quella negativa di ieri sull'IVA. Vale a dire, l'ipotesi del governo è scorporare dall'IRPEF il reddito d'impresa e dare un aiuto agli artigiani. I dettagli sono a pagina 3 di Alessandro Barbera, lo studio, un taglio delle tasse per artigiani e commercianti, quegli stessi commercianti che subito protestano per il profilato aumento dell'IVA. E allora scrive Barbera: Palazzo Chigi e Tesoro, le nuove stime di Standard & Poor's e OCSE sono state accolte con una certa indifferenza. L'ipotesi al governo: niente manovrine per centrare il deficit, né accantonamenti per rispettare la regola del debito. La legge di stabilità si concentrerà sull'unica via d'uscita considerata percorribile, tentare di rianimare il PIL. E però si punta appunto alla revisione della spesa e allo studio questo taglio delle tasse per artigiani e commercianti. A proposito di revisione della spesa, sapete che Matteo Renzi ha scritto e ha chiamato tutti i ministri dicendo: tagliate il 3% e fate le vostre proposte, e fatele, perché se non le fate voi agirò io d'imperio. Beh, il Corriere della Sera racconta che i ministri pare abbiano preso molto sul serio questo invito appello di Renzi, tanto che Mario Sensini a pagina 3 racconta i tagli ministro per ministro. Guidi allo sviluppo economico e Lupi al Ministero dei Trasporti sono quelli che hanno il primato della dieta. Eccoli qui, anticipati dal Corriere, quelli che sono i suggerimenti dei vari ministeri. Federica Guidi vuole tagliare per esempio gli incentivi alle imprese. Altri 300 milioni li taglierà dalla rimodulazione del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quindi il ministro Lupi. La difesa invece, che ha un bilancio imponente, 20 miliardi, tra le ipotesi avanzate dal ministro Pinotti, quella di anticipare la riduzione del personale delle forze armate di 40.000 unità. La giustizia avrebbe individuato l'ipotesi di ulteriore riduzione di posizioni dirigenziali del ministero, unificazione dei centri di spesa e gestione del contenzioso, tagli all'edilizia e l'acquisto di beni e servizi. Il Ministero degli Esteri ha proposto che cosa? La riforma delle indennità al personale di servizio, risparmiando 10 milioni e 700 mila euro. Insomma, diciamo, ministero per ministero, ecco le ipotesi di tagli che sono state fatte e che sono oggi annunciate dal Corriere della Sera. Ce la farà dunque Renzi contro i gufi dell'OCSE? Ce la farà, sì o no? chi lo sa. Intanto oggi parlerà alla Camera, Renzi farà questa informativa sui 1000 giorni, racconterà quello che è il suo obiettivo, e tra l'altro racconta Goffredo De Marchis su Repubblica sul tema della giustizia: prenderò contropelo una parte del mio partito. Questa è la linea di Renzi preannunciata ai suoi collaboratori, chissà che cosa dirà oggi sul tema giustizia. Certo, a proposito di giustizia, è ancora uno scenario fosco quello sull'elezione di 2 giudici mancanti della Corte Costituzionale, su cui si deve esprimere il Parlamento dopo l'accordo tra i partiti, ma sapete che dopo che è saltato Catricalà, ora l'accordo sarebbe su Violante e Bruno, diciamo Violante in area PD e Donato Bruno Forza Italia, ma anche ieri nessun accordo. Ma oggi scrive il Corriere, pagina 8, il titolo è questo: per Violante e Bruno oggi è il giorno decisivo. Capito, Mauro Meazza? È decisivo oggi. Buongiorno, lo scrive il Corriere. No, sono contento perché giorni decisivi, sai che questa è una settimana decisiva ad esempio per la Tasi, quindi sono contento se è decisivo anche per l'elezione alla Consulta. Io ero un po' distratto perché stavo leggendo finalmente il testo del decreto sblocca Italia. Sì. Non so se tu avevi la stessa curiosità mia, però insomma, visto che se ne è parlato a lungo, ho avuto una gestazione tribolata e allora me lo stavo leggendo sulla versione. Ci sono novità negative? Non lo so, qui bisogna andare a leggersi rigo a rigo. Per fortuna che di solito quando mettiamo, e anche stavolta l'abbiamo fatto, quando mettiamo questi testi poi c'è una colonnina a fianco che spiega, diciamo, rimette in italiano corrente quello che vuol dire il decreto. Comunque, guarda, puoi trovarlo anche tu nelle prossime ore sul nostro sito www.ilsole24ore.com. Chi invece legge il giornale da tablet, da computer, eccetera, lo trova già a disposizione, così come altre notizie, insomma. Comunque, nello sblocca Italia, ad esempio, c'è il rent to buy. Tu sai cos'è il rent to buy? È una formula, caro mio, è una formula per cui tu sei in affitto, però potresti cominciare con quell'affitto a pagarti l'acquisto della casa. Mancava una normativa, diciamo, ben definita, e il decreto sblocca Italia interviene. Lo spieghiamo, indovina poi in che pagine. Immagino quella di norme e tributi. Ma bravissimo, perché è la prima di una serie di uscite proprio dedicate alla spiegazione dello sblocca Italia, che continueranno naturalmente oggi, domani e anche doman l'altro per raccontare questo decreto. Intanto io poi torno a leggermelo. Sono anche delle interessanti cose sul 770, settimana decisiva anche per il 770, vorrei dirti. E poi c'è questa storia carina di Asti, che ho letto non su norme e tributi questa volta, ma nelle pagine di Impresa. Il comune di Asti ha deciso di fare una agevolazione particolarmente robusta alle imprese che andassero ad insediarsi lì, quindi area produttiva a prezzi di saldo è la sintesi del titolo, ma insomma tutti i particolari poi nelle nostre pagine, non di norme e tributi, bensì in quelle di Imprese e Territori. Questa volta penso di averti un pochino sorpreso, caro Alessandro. Su questa sì. Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. E allora, questo per quel che riguarda la politica, vedremo se oggi è il giorno decisivo oppure no per l'elezione di Violante e Bruno per quel che riguarda la Corte Costituzionale. Mentre noi, come detto, ci concentreremo anche su quello che è la battaglia contro il califfato dell'ISIS che si è insediato tra Iraq e Siria. Ieri 25 stati si sono trovati a Parigi con un ottimismo forse un po' esagerato, un ottimismo di facciata anche. Alla conferenza di Parigi si è deciso di aiutare con ogni mezzo la lotta dell'Iraq all'ISIS. Con ogni mezzo cosa vuol dire? Raid militari? Dare armi? Beh, certo, raid ci sono già stati nella notte. Gianandrea Gaiani fa un'analisi sul Sole 24 Ore a raccontare che solo via terra il conflitto potrà essere breve, perché l'invasione del territorio del califfato sarebbe l'unica strategia efficace per chiudere in tempi brevi il conflitto in Iraq e Siria. Ma qui ci si pone la questione: che si fa? Si torna con le truppe armate in Iraq? E poi molti fanno notare questa contraddizione per cui all'interno della coalizione che vuole combattere l'ISIS, ci sono degli stati, si fa notare il Qatar in prima persona o anche l'Arabia Saudita, che sono stati finanziatori di questo stesso ISIS. A parte che anche sull'America si potrebbe dire qualcosa, finché l'ISIS era in un'altra funzione irachena. Insomma, molti analisti fanno notare che c'è un ottimismo un po' troppo esagerato di fronte a questa situazione. Intanto sul campo ci si pone la questione sempre di come trattare con i terroristi, come trattare con i rapitori. Per esempio, racconta Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera che c'è grande allarme per i rapitori sulla questione di Greta e Vanessa, le due cooperanti italiane, Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, che ora alzano il prezzo. I rapitori di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo alzano il prezzo, come era prevedibile dopo le decapitazioni rivendicate dall'ISIS del cittadino britannico David Haines e dei due giornalisti americani, ma soprattutto dopo la girandola di voci sulle trattative per liberare i prigionieri in mano ai terroristi in Siria. Ecco una fonte anonima con un messaggio fin troppo eloquente: accettate le condizioni se non volete che queste due ragazze vengano cedute agli estremisti della Jihad, che tengono in scacco Stati Uniti e alleati con la minaccia di uccidere altri ostaggi occidentali. Questo è il messaggio, racconta Fiorenza Sarzanini, che una fonte anonima fa sapere al governo italiano. Trattare o no, pagare o no. Tra l'altro oggi c'è un'interessante analisi di Ahmed Rashid, un giornalista pakistano che ha scritto il libro assolutamente imprescindibile dal titolo Talebani, per chi vuole capire come e perché nacquero i talebani in Afghanistan. Ahmed Rashid fa un intervento su Repubblica a raccontare il modo di comunicare da parte di questi terroristi dell'ISIS. Reporter e cooperanti sono i nuovi nemici, così il califfo nero spaventa il mondo. Racconta Ahmed Rashid, quando Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dell'IS, vuole inviare un messaggio, lo fa attraverso le molteplici piattaforme dei social media, rendendo impossibile per le autorità di tutto il mondo eliminare il messaggio. Mentre Bin Laden, quando voleva parlare con qualcuno, convocava i giornalisti. I talebani erano educati, cortesi, non particolarmente comunicativi, però non ti torturavano, non ti appendevano per i piedi, ti consentivano di scrivere quello che vedevi. Ora nessun giornalista obiettivo sarà mai in condizione di fare la stessa cosa con l'ISIS. Non conosceremo mai veramente la sua storia interna, i suoi livelli di consenso, se non attraverso informazioni di seconda mano. Nessun giornalista in futuro potrà incontrare faccia a faccia al-Baghdadi, visitare i suoi accampamenti, vedere come governa il suo nuovo califfato. Sarà lui sui social media a dominare la scena quando vuole lui, non più noi i giornalisti, perché i giornalisti l'ISIS li ammazza. Ne parleremo comunque alle 8:15. Intanto, per quel che riguarda la cronaca, mi ha molto colpito ieri ciò che anticipava il Corriere della Sera con la vicenda di Alex Schwarzer, squalificato per doping, e le vicende di Carolina Kostner, la sua ex fidanzata, che in un verbale dice incredibilmente dormiva con una macchina per l'ossigeno, una tenda ipossica in grado di abbassare la percentuale di ossigeno, che è vietata in Italia dal Ministero della Salute. Ora racconta sempre il Corriere della Sera, con Andrea Pasqualetto e Andrea Arzilli, a pagina 23, che per queste dichiarazioni è stata convocata Carolina Kostner e rischia 4 anni di stop per collaborazione, complicità con l'ex fidanzato. Il CONI ora vuole anche interrogare Carolina Kostner, da qui il rischio di uno stop per la pattinatrice italiana. Oggi Massimo Gramellini, il suo Buongiorno Amori Dopati è proprio dedicato a questo. Scrive Gramellini: se il vostro compagno arrivasse a letto tutte le sere con una maschera sulla faccia collegata a un tubo rumoroso, prima o poi vi verrebbe lo scrupolo di chiedergli spiegazioni. E invece Carolina Kostner si limitava a mettere i tappi e augurare la buonanotte al suo Alex, il marciatore olimpico dal motore truccato. Le dichiarazioni di Carolina ai magistrati che indagano sulle prodezze alchemiche dell'ex fidanzato spezzano il cuore per la loro ingenuità. Non si può che comprenderla quando i cattivi dell'antidoping bussano alla porta e Alex le intima: apri tu e digli che non ci sono, e lei accetta di mentire in nome dell'amore. L'attenuante sentimentale venne già riconosciuto al personaggio di Marlene Dietrich nel memorabile testimone d'accusa. Riesce più difficile digerire però che un atleta della sua esperienza conviva con un collega dopato senza mai rendersi conto di tutta la farmacia che gli gira attorno. La distrazione sta diventando una caratteristica delle nostre élite. Ti regalano una casa e non te ne accorgi. Ti pagano una vacanza e non te ne accorgi. Ti vendono una partita e non te ne accorgi. D'accordo, le persone come la Costner conducono vite complesse e ci sta che al momento di andare a letto siano così affaticate da ignorare l'armamentario da guerre stellari indossato dal partner. Ma ormai questa distrazione è un virus che dilaga ovunque, anche dove meno te lo aspetti. Per dire, c'è uno che sta a Palazzo Chigi per abbassare le tasse e ancora non se n'è accorto. Ecco, questo Massimo Gramellini oggi sulla Stampa. Parte dal caso Schwarzer-Kostner, potremmo dire a questo punto, per arrivare anche un po' più in là. Che dire, si può andare ancora con un articolo di cronaca che Paolo Di Stefano fa sul Corriere della Sera per raccontare che a Trieste hanno imposto nuove regole alle università, a Trieste e Udine per la verità. Non si può usare in maniera discriminatoria l'italiano, per cui non chiamate assolutamente professoressa la Patrizia Romito, docente a Trieste, esperta in tema di violenza sulle donne. Lei chiede di essere definita professora, non professoressa, professora. Da qui professora, sindaca. Questa battaglia per la quale io mi inimico molte donne, che dico, mi sembra una battaglia di retroguardia. Certo, tu non capisci, sei maschio. Da oggi sarà il piloto e il tassista. Va bene. Invece che il pilota e il tassista. Va bene, dai. Si scherza anche un po' per dire che la carta costa invece va a Lorenza Castagneri sulla Stampa, una pagina intera. No, io non ci voglio che... Su chi rolla le sigarette? Su chi rolla le sigarette? Una pagina. Non si comprano più, si rollano come i fricchettoni. Bogotà, deragliamento di un treno a Bogotà e sono morti 250 persone, 758 feriti. Tu ci stavi sul treno a Bogotà? No. E allora che ti cazzi a fa? 24 mattino. Sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui. Allora, i primi raid militari alle porte di Baghdad ci sono già stati questa notte da parte degli americani. Sono questi i primi frutti della conferenza di Parigi. Ieri 25 stati, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, anche l'Italia, hanno parlato di come fermare l'ISIS, il califfato che tra Iraq e Siria si è insediato. È una situazione delicata, tanto per capire, la Gran Bretagna non fa sapere al momento se parteciperanno o no ai raid militari. Perché? Perché la Gran Bretagna, lo sappiamo, ha già pagato il prezzo di un cooperante ucciso e c'è un'altra persona che è in mano ai terroristi dell'ISIS, i quali hanno minacciato sarà la prossima vittima, dopo tra l'altro anche i due giornalisti americani. E beh sì, perché ci sono gli ostaggi sul campo, quelli che rischiano la vita. Il gesuita padre Paolo Dall'Oglio è stato rapito in Siria ormai nel luglio del 2013. Ci sono due cooperanti italiane, lo ricordate? Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, dal 31 luglio rapite in Siria. E quindi ci si chiede, e oggi il Corriere per esempio racconta, attenzione perché i rapitori hanno alzato il prezzo da quando si è sparsa la voce di possibili trattative. Perché in questa vicenda terribile, grande, c'è una storia della storia, cioè quella delle persone in ostaggio, che porta con sé l'annosa questione: che fare? Trattare? Si tratta con i terroristi? Oppure non bisogna trattare, bisogna tenere la linea della fermezza americana anche a costo di sacrificare la vita delle persone in mano appunto a questi uomini del terrore. L'opzione militare, insomma, la guerra asimmetrica, il dramma degli ostaggi, di tutto questo vogliamo parlare anche con voi. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. E intanto saluto i colleghi giornalisti. Intanto Domenico Quirico, inviato della Stampa, buongiorno e ben ritrovato Quirico, eccoci. Così come voglio salutare Massimo Fini, che è scrittore e editorialista del Fatto Quotidiano del Gazzettino. Ben ritrovato, buongiorno Fini. Buongiorno a lei, Milan. Allora, Quirico, intanto convince l'opzione militare. Nella notte ci sono già i primi bombardamenti. È questa la strategia anche militare? Ma lo che convinca l'opzione militare, facciamola breve. Per battere l'ISIS i bombardamenti aerei non bastano, ci vogliono le fanterie. E le fanterie per adesso non ci sono, nel senso che ci sono i peshmerga curdi, che sono, erano dei discreti combattenti, ma che si battono per il loro territorio, non vanno certo a fare il lavoro per conto degli altri, perché sanno benissimo che nella pentola bollente dell'Iraq, se mettono il naso fuori dal loro territorio, diventerebbero immediatamente il bersaglio dell'attacco di tutti gli altri. Ci sono gli sciiti, iracheni, che sono quelli che sono scappati come lepri davanti alle armate del califfo di Mosul, e non c'è nessun altro. I peshmerga curdi, ricordiamo, sono quelli che dovremmo armare, poi queste armi arriveranno, sono arrivate. Ieri ho visto... No, i peshmerga curdi erano già armatissimi per i fatti loro, sono armatissimi da quando si battono per la costruzione di uno Stato indipendente, cosa che realizzeranno credo nel giro delle prossime settimane, che è il loro sogno, come dice, ancestrale dal 1918. Ma il problema è che i peshmerga curdi non vanno a Mosul, certo. Non vanno nella pianura di Ninive, non vanno nel triangolo sunnita, stanno dove sono, quindi vanno benissimo per contenere un'eventuale espansione della... Mantengono le posizioni, però ci vorrebbe, e qui la sottodomanda è: ma davvero l'America, secondo lei Quirico, davvero la Gran Bretagna, davvero la coalizione è pronta a una nuova invasione di terra dell'Iraq? Credo di no, nel senso che Obama è stato eletto due volte sulla base del principio di non andare più a fare operazioni militari in posti così lontani dagli Stati Uniti come l'Iraq o l'Afghanistan, e quindi fino a quando sarà presidente credo che manterrà questo impegno che ha preso con i suoi elettori. Vedremo poi il prossimo presidente americano, ma insomma sono cose che verranno. La Gran Bretagna tra una settimana potrebbe essere ridotta a uno staterello irrilevante dell'Europa, non vedo come possa mettersi in operazioni militari di questa portata, di cui peraltro non ha la forza neanche ora. Ricordiamo che maggiordomi degli americani, ma niente di più. Giovedì incombe anche questo referendum sull'indipendenza della Scozia, che certamente è un fatto politico interno, ma non solo, che la Gran Bretagna guarda, e Londra guarda con grande attenzione. Vorrei chiedere un primo parere anche a Massimo Fini sulla questione dell'opzione militare. A me ha anche incuriosito una cosa: tra i 25 stati presenti ieri ce n'erano una decina di stati arabi, alcuni dei quali, penso al Qatar, considerati tra i massimi finanziatori, magari in maniera occulta, dello stesso ISIS. E allora mi viene da pensare: ma che tipo di coalizione è quella di ieri? Ma quello che a me viene a pensare è che non capisco perché gli stati occidentali, gli Stati Uniti, debbano intromettersi in quella che è per il momento una guerra civile, cioè sulla base di quali diritti, di quale, oltretutto sono proprio gli Stati Uniti che hanno creato questa situazione, perché è con l'aggressione all'Iraq nel 2003 e poi combinatasi con le rivolte contro Assad, che abbiamo noi Occidente, parola già di per sé sinistra, perché ricorda Eurasia e Stasia di Orwell, e quindi l'opzione militare ha il solo effetto, a mio avviso, di accentuare il pericolo che questi vengano a portare la guerra in Europa e negli Stati Uniti, cioè con i mezzi che hanno in questo caso, cioè terrorismo e kamikaze. Tu vieni a casa mia e io vengo a casa tua. Però già lo hanno fatto, le immagini delle decapitazioni. Vabbè, è gente che sta lì, mi scusi, se durante la seconda... Dire, pensate, Fini, oggi l'Independent cosa scrive? Che Al-Qaeda, che non è certo considerato un'organizzazione filantropica, avrebbe chiesto in passato all'ISIS di rilasciare David Haines, la persona che in questo momento rischia di essere la prossima vittima, perché è considerata una persona che non c'entra nulla. Cioè, Al-Qaeda chiede all'ISIS, guardate che siete troppo radicali voi. Al-Qaeda non esiste, esiste quel missilizio al-Zawahiri, Al-Qaeda non esiste più, esiste questa realtà che si chiama ISIS, che sta facendo una guerra civile, in cui non vedo perché l'Occidente debba intromettere. Però c'erano stati arabi anche, stati arabi che dicono, guardate che quando il re dell'Arabia Saudita dice attenzione perché arrivano in Europa se non li fermiamo, mi inquieta un pochettino, vuol dire che ne sa qualcosa anche lui, no? Sì, ma voglio dire, più gli attacchi più verranno in Europa, mi pare inevitabile. Questo è, non ripeto, c'è questa il vizietto di considerarsi la verità assoluta è antico in Europa, non è, cioè Saint-Just, che è il leader massimo insieme a Robespierre della rivoluzione francese da cui siamo nati, afferma che la verità è una sola e quindi può essere ammesso solo il partito che in essa si riconosce e tutti gli altri devono essere soppressi. Quindi non è solo una questione delle religioni monoteiste, variamente declinate, come è in questo caso l'ISIS, è una questione che riguarda anche il cosiddetto mondo laico, dove ognuno ritiene di avere la verità assoluta. L'ISIS la sua e vuole convertire tutti al proprio mondo. Arrivare al Vaticano. Momento. Però l'Occidente ha la sua, per cui tutti il potere democratico è la verità assoluta, tutti gli stati che non sono democratici devono essere i governi che non sono democratici essere abbattuti. Ciò è avvenuto in Afghanistan nel 2001, con una guerra che continua ancora adesso, è avvenuto in Iraq nel 2003, è avvenuto in Somalia, nella Somalia dei Kurdi islamici nel 2006, è avvenuto in Libia. Insomma, dice, sono due forze contrapposte estremiste. Io però vorrei introdurre il tema prima della pubblicità. Tra l'altro vi ricordo che dopo ci raggiungerà il vice ministro degli esteri Lapo Pistelli. Vorrei introdurre il tema perché mentre noi parliamo ci sono persone sul campo, in alcuni casi italiani, come i tre, padre Paolo Dell'Oglio e due cooperanti in Siria, che rischiano materialmente, nel senso che sono in mano a queste persone. Ora, a me la domanda che ho posto, cioè trattare o no con i terroristi, voglio dire, fa maggior specie se la rivolgo a Domenico Quirico, perché Domenico Quirico, come ricordate, è stato 5 mesi in mano a persone che lo hanno rapito in Siria. Domenico Quirico, intanto le chiedo, lei su questa posizione ha cambiato idea prima e poi quando invece dopo era in mano a queste persone, oppure ha sempre avuto un'idea precisa sul trattare o meno con i terroristi? Banale, tra la vita umana e altre cose scelgo sempre la vita umana, e l'ho pensato prima e l'ho pensato dopo. Non ho fatto. Però sa, per gli americani tutta la sì. E per me trovo assolutamente come dire lercio il ragionamento di coloro che oppongono alla possibilità di salvare una persona le ragioni dei soldi, e lo dico proprio lercio, trovo che sia un ragionamento, non un ragionamento, è una considerazione lercia, ma non perché io sia sopravvissuto a un'esperienza di questo genere, lo trovo per ragioni oggettivamente morali, poi possiamo discutere di quello che vuole, ma io trovo che sia infame che ci sia qualcuno che oppone il problema della cassa pubblica la possibilità di salvare una persona. Guardi, io sono d'accordo sono d'accordo con lei su questo punto. Sa però che molti dicono, poi lo sentiremo, l'abbiamo avuto ospite Edward Lutwak, dare soldi a queste persone non è tanto il dare soldi in cambio di una vita. Anch'io sono d'accordo con lei che è un'impostazione lercia, uso il suo aggettivo, ma dare soldi a persone che poi utilizzano questi soldi per farne altri e per autoalimentarsi rapendo altre persone. Questo, cioè, l'autoalimentare un circuito perverso. Lascio questo tipo di considerazioni a chi vuole. Io preferisco sempre pensare che prima si salva chi è in pericolo e poi si vedrà. Aggiungo che in alcuni casi questa considerazione non vale, nel senso che è vero che alcuni di questi gruppi sequestrano le persone per avere del denaro, ce ne sono altri, e pongo tra questi anche l'ISIS, il caso ad esempio dei due colleghi americani che sono stati ammazzati, non aveva alcun scopo legato a quello di arricchirsi le sacocce, ma li ha sequestrati per ammazzarli, e quindi questo discorso non ha alcun senso. Allora, andiamo a sentire un attimo la pubblicità, poi ripartiamo con Domenico Quirico, Massimo Fini, e ci raggiungerà anche il vice ministro degli esteri Lapo Pistelli. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:38 minuti insieme a Domenico Quirico, inviato della stampa, Massimo Fini del Fatto Quotidiano. Saluto il vice ministro agli esteri Lapo Pistelli, che ringrazio. Buongiorno vice ministro, eccoci qui. Buongiorno. Intanto le chiedo, l'Italia come partecipa a questa coalizione di 25 stati che vogliono contrastare l'ISIS? Lo farà militarmente? Daremo più armi ai Peshmerga? Ci può spiegare? Ma posso iniziare salutando Domenico Quirico? Certo, non se ne offendono, no, gli altri. Come no? Che ho occasione di risentire dopo la incredibile e drammatica esperienza che ha fatto, e lo dico agli ascoltatori, non lo farebbe lui, magari lo faccio io. Domenico Quirico ha scritto col suo collega di prigionia un libro straordinario che ho letto quest'estate, Il Paese del Male, che con la cui lettura consiglio agli ascoltatori per comprendere dal di dentro come un uomo che conosce come pochi altri il mondo arabo e le rivoluzioni, le transizioni di questi anni, ha vissuto questi 160 giorni di prigionia appunto in Siria. Fine dello spot, ma lo dovevo no, e lo volevo fare. No, ma non è uno spot, lo dovevo e lo volevo fare. Benissimo. Senta, come intendiamo partecipare? Guardi, in un modo non meccanico, nel senso che il rischio molto forte di riprodurre sotto mentite spoglie la guerra al terrore di Bush c'è, quindi un mondo diviso in buoni e cattivi, e invece abbiamo capito che quando dividiamo il mondo in buoni e cattivi in modo troppo meccanico poi non ci capiamo niente. Allora, io sono da un lato molto soddisfatto, noi siamo soddisfatti che, io aggiungo, finalmente con molto ritardo la comunità internazionale, o quella che noi chiamiamo comunità internazionale, abbia assunto consapevolezza della gravità della minaccia e della qualità inedita della minaccia. Non devo stare a spiegare nemmeno adesso che cos'è ISIS, Daesh, rispetto alle altre forme di jihadismo che abbiamo conosciuto. Il secondo punto, e quindi diciamo il califfato, il jihadismo che si fa stato, la conquista della Mesopotamia a partire da Raqqa sui fiumi del Tigre e dell'Eufrate, lo smontaggio della carta geografica per come l'abbiamo conosciuta noi, perché si seguono altre logiche, i titoli questi sarebbero dell'analisi. Come contribuiamo? Innanzitutto noi sulla parte militare, che so essere quella più ghiotta, quello che dovevamo fare abbiamo già fatto, sì. Nel senso che, detto con molta franchezza, io ho fatto un'esperienza tutta diversa da quella di Quirico, ma ero in Iraq e in Kurdistan ad agosto, e ho potuto constatare una cosa molto semplice, che non c'è aiuto umanitario, di cui peraltro, come dire, ho la delega, se le persone che vuoi aiutare non sono vive, nel senso, se soccombono quando uno vede campi di transito svuotati al semplice annuncio dell'arrivo di ISIS per effetto del panico, e poi vede le immagini che circolano indisturbate in rete, capisce che c'è da garantire innanzitutto un diritto all'autodifesa. Questo l'abbiamo fatto con armi leggere, peraltro, perché noi abbiamo dato armi leggere, perché i Peshmerga sono una sorta di fanteria di montagna molto, diciamo, molto, molto, molto ben preparata, ma anche insomma, non tecnologicamente avanzatissima, che fronteggiava che fronteggia un esercito che è molto più attrezzato di quanto si pensi. Abbiamo fatto questo, continuiamo con l'aiuto umanitario, che lo sappiamo, questi sono i numeri che abbiamo tante volte dato, è parte di una componente politica molto importante. Paradossalmente l'aiuto in quel mese del Kurdistan era indispensabile, pur conoscendo tutti noi le aspirazioni del Kurdistan, per permettere ciò che è successo a Baghdad, cioè la nascita di un governo che fosse il più possibile inclusivo e iracheno. Ci siamo davanti adesso a questo passaggio di fase, diciamo, di questo salto di qualità che Obama ha proposto, che ha degli elementi di forza e, io lo dico con molta franchezza, anche qualche elemento di debolezza su cui lavoreremo. Perché i raid ci sono già stati questa notte. Qualche primo raid. Ecco, l'Italia come, cioè voglio dire... No, noi non partecipiamo ad azioni, diciamo, lo ha precisato il Ministro della Difesa, non partecipiamo ad azioni belliche tout court, disponibili a dare una mano a chi si assuma queste responsabilità, quindi gli Stati Uniti volentieri, ma non lo abbiamo fatto in altri tempi, non lo facciamo neanche adesso. E devo dire sinceramente, questa è stata la posizione che anche ieri il Ministro degli Esteri italiano ha assunto nella conversazione avvenuta a Parigi, nella conferenza avvenuta a Parigi, io dico con molta franchezza che spero che vi sia una capacità, questo va letto fra le righe di ciò che ha detto il ministro Mogherini, di tessere relazioni politiche nell'area, e aggiungo, nessuno di noi fa advocacy, ma c'era un'assenza ieri che dobbiamo in qualche modo colmare, che è l'Iran, ovviamente, che è stato fondamentale per convincere alla fine Maliki a fare il mezzo passo indietro che però, ha fatto. Però, vice ministro, di pensare complessivamente l'azione del, diciamo così, anche la nostra comprensione del mondo islamico, e non soltanto questa guerra civile intrasunnita, ma il confronto sunnita-sciita. Lei ha citato appunto questa guerra civile. Qui ci sono due posizioni finora espresse. Domenico Quirico ci ha detto chiaramente che o si interviene militarmente per terra, oppure cioè per via terra, oppure è difficile contrastare l'ISIS, mentre Massimo Fini dice ma basta, l'Occidente non deve più immischiarsi in quella che è una guerra civile, appunto, nella quale il mondo occidentale non ha voce in capitolo, a continuare a produrre ulteriori danni futuri. Lei, allora, io non condivido una posizione, capisco i rischi dell'altra, non condivido la posizione di Fini del non dover partecipare, perché noi non siamo la Finlandia, insomma, molto malamente la geografia ha una sua forza, la brutale forza dei fatti. Se le istituzioni libiche collassano e quello diventa l'unico canale attraverso il quale passano 120.000 disperati in meno di un anno sulle coste italiane o sulle coste europee, io non mi posso girare dall'altra parte. Se di quei disperati che arrivano, per arrivare al primo paese, al primo cluster di arrivi che hanno una caratteristica, diciamo così, di migrazione economica, quella tradizionale, irregolare, devo arrivare al Gambia e siamo all'ottavo nono gruppo, ma i primi sono eritrei, somali, sud-sudanesi, sudanesi, siriani, il secondo gruppo, capisco che vivo circondato da una faglia di fragilità pazzesca, un arco di instabilità che parte dalle coste dell'Atlantico, diciamo dal Mali per farsene una ragione, e arriva attraverso qualche zigzag fino al Pakistan, e io vivo lì, non vivo da un'altra parte del mondo, quindi ho bisogno di occuparmene. Possibilmente con intelligenza, perché ahimè ciascuno di noi è consapevole di quanti errori sono stati fatti nel decennio passato, aggiungo di quanti errori nel tempo recente hanno fatto anche paesi, anzi in questo caso fatemi dire la maggioranza degli errori rispetto a loro, arabi islamici, che hanno liberato una serie di vasi di Pandora lanciando boomerang a ripetizione, che stanno giustamente, come un boomerang fa, ritornando indietro. Insomma, non si addestrano centinaia di jihadisti o migliaia di jihadisti a combattere la guerra di Spagna degli arabi, cioè mandandoli in Siria immaginando che poi questi non tornino a casa, tornano tutti a casa. Questo certamente. Allora facciamo questo così. On the ground, no, c'è un secondo tema che mi ha chiesto giustamente, che è quello che Quirico propone. L'esperienza di Quirico testimonia, come lui la racconta, i passaggi da gruppo a gruppo, la enorme difficoltà di combattere il jihadismo dal cielo o da fuori. È verissimo, è verissimo. Del resto bisogna anche dire che nessuno di noi fa politica senza una legittimazione politica, senza una volontà dietro, e le lezioni apprese sul terreno negli ultimi 10 anni di cosa vuol dire boots on the ground, penso agli americani in Iraq, fanno prendere più di una cautela. Quindi è chiaro, capisco, è chiaro, capisco, è una decisione però, no, ma è chiaro, è una decisione molto molto delicata. Fatemi perfetto. Così, devo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi torno da Lapo Pistelli, Massimo Fini, Domenico Quirico, perché Vice Ministro, c'è la questione anche degli ostaggi, che è una questione molto delicata, che vede l'Italia con 3 persone in questo momento, almeno in quella zona. Poi ce ne sono anche altre in Libia, altre in altre zone, sulla quale voglio tornare. Eccoci qui. Allora, vorrei da Domenico Quirico e Massimo Fini un'analisi a quello che ci ha detto e si sta dicendo il Vice Ministro. Domenico Quirico, le difficoltà, ci sta spiegando la Popistelli, di una scelta, come ha detto lei, di intervenire anche via terra. Guardi, le rispondo così. Il problema dell'ISIS è un problema legato diciamo alla natura di questa nuova e terribile formazione politica. Cioè, io ho l'impressione che ci troviamo di fronte ad una delle ennesime trasformazioni e variazioni, metamorfosi di quella che una volta chiamavamo Al-Qaeda. Siamo di fronte a un fenomeno di enorme complessità e pericolo, che è quello della nascita di un nuovo totalitarismo, come noi abbiamo conosciuto in Europa in tempi, ahimè, anche molto recenti. Cioè, le dittature sono una cosa, i totalitarismi sono un'altra cosa. I totalitarismi, come dire, sono fatti da coloro che sostengono che bisogna bonificare la società da tutto ciò che è impuro, bonificarla eliminando tutto ciò che è impuro. Una volta è come dire, il pretesto la razza, l'altra volta è l'ideologia, un'altra volta è la religione, come in questo caso. Allora, il problema è che questa formazione politica, questo nuovo totalitarismo, ha dei progetti estremamente ambiziosi che vanno al di là della valle di Ninive, della Mesopotamia, delle distruzioni, come ben ha ricordato il ministro, delle frontiere create dall'Occidente molti anni fa. Un progetto è la costruzione di uno Stato totalitario che vada dall'Asia centrale alla Spagna, all'Europa, e conglobi il vecchio califfato del VI secolo. Allora, di fronte a questa sfida bisogna, come dire, ragionare e rendersi conto. Cioè, non siamo di fronte alla necessità di eliminare un gruppo terroristico, se vogliamo, particolarmente pericoloso, che è un problema di polizia, parliamoci chiaro, il terrorismo è un problema di polizia. Siamo di fronte ad una sfida militare da parte di un sistema totalitario che già ha provocato enormi guasti e ha ammazzato, eliminato una quantità di persone. Gli yazidi vengono eliminati non perché sono pericolosi per il califfato, ma perché sono yazidi. I cristiani sono stati cacciati perché sono cristiani. Quindi andrebbe contrapposta una uguale forza militare. Cioè non... Ma io faccio è un discorso, se vuole, molto banale, ma ripeto, a una sfida militare non si può opporre semplicemente, come dire, diplomazia. E occorre rispondere, ma non siamo noi che l'abbiamo scelta in questo caso, sono gli altri che ci hanno scelti come nemici. È interessante questo punto di vista, che è il punto che Massimo Fini respinge. Cioè non è una guerra dichiarata che ci è stata dichiarata, Fini. No, siamo noi che non abbiamo dichiarato la guerra al califfato. Allora molte cose si chiarirebbero, perché se ci fosse, come ai vecchi tempi, una dichiarazione formale di guerra e un riconoscimento di questo califfato, allora è chiaro che, per esempio, sia i coraggiosi giornalisti, sia cooperanti, sia sarebbero sotto il controllo militare delle forze, in questo caso occidentali. C'è un fatto: noi non siamo più in grado, perché siamo talmente svuotati di valori, da mandare delle forze sul campo. Noi agiamo con macchine, che sono gli aerei, che sono i Dardo, i Predator, cioè i famosi droni, sì. E non abbiamo la capacità. Infatti, a chi ci affidiamo? Ci affidiamo ai Peshmerga e ci affidiamo, tutto sommato, è la forza più consistente, ai Pasdaran iraniani. Voglio dire anche questo, che se per anni e anni si considera uno Stato come l'Iran, uno Stato strutturato, eccetera, come l'asse del male, e poi è chiaro che si producono fenomeni estremi come quelli dell'ISIS, Ma perché l'Iran doveva stare nell'asse del male e non ci stava Israele? Siamo sempre noi, questo è il problema, no? Per Massimo Fini, noi con la nostra, col nostro modo di fare. Però Vice Ministro Pistelli, le devo chiedere questo: prima Domenico Quirico ha definito lercia l'impostazione di chi dice si pagano soldi per salvare una vita. Qui però c'è una questione, io capisco anche la delicatezza dell'argomento, visto che abbiamo delle persone in Siria. Ci sono dei canali sulla questione delle cooperanti e di padre Paolo Dall'Oglio, cioè l'Italia in questo momento sa con chi parlare, con chi trattare in qualche modo la liberazione? Beh, bisogna distinguere caso per caso. Noi abbiamo 6 persone in questo momento che sono in aree di questo segno, diciamo oggetto, sono prigionieri. Ne abbiamo 3 in Siria, 2 in Libia e 1 in Pakistan. Qualcuno da tantissimo tempo, sì, certo, si dubita ancora magari dell'esistenza in vita. Altri invece con dove il contatto è regolare. Il contatto è regolare, ma è anche diversa la natura dei gruppi che hanno o si suppone che abbiano in mano questi ostaggi. L'esperienza, Quirico già racconta con la sua esperienza cosa vuol dire passare di mano talvolta per una ragione volgare o pecuniaria eccetera e finire nelle mani di qualcuno che ha un progetto diverso. Però è di tutta evidenza che a seconda dei paesi che prendiamo in considerazione, non mi faccio andare poi in eccessivi dettagli, noi abbiamo rapiti, penso ad alcuni tecnici ad esempio, che sono rapiti a semplice scopo estorsivo, e dove, come capita nel fenomeno dei sequestri a scopo estorsivo, lì e in altri paesi in cui, viva Dio, noi non siamo stati oggetto di sequestro, penso allo Yemen o alla Somalia, ma molti altri europei lo sono stati, prima si interviene e prima magari si paga a chi ti estorce e magari in poche ore con un migliaio di dollari te la cavi. Chiaro. Più passa di mano il gruppo, più cresce il prezzo dello ostaggio, eccetera eccetera. Lei l'impostazione... ci sono gruppi invece che hanno, come dire, una modalità e sono chiaramente più pericolosi, politica, e dove per politica si intende l'utilizzo dell'ostaggio a scopo di riconoscimento di se medesimi come interlocutori politici, sì, dentro questa guerra, e ad oggi a noi non è capitato e Dio voglia che non ci capiti mai, gruppi che invece manifestano attraverso la propria crudeltà come dire, il proprio aumento di valore sul campo, come fa anche l'ISIS con le uccisioni che abbiamo visto. Le chiedo però questo, l'impostamento tramite, certo, violenza, certo. Per concludere, l'impostazione di chi dice trattare o no con i terroristi, pagare o no, a lei come? Ancora una volta è un po' meccanica perché, ripeto, c'è caso e caso, e devo dire che la maggior parte delle volte in cui noi siamo riusciti a intervenire positivamente non c'è stato nessun passaggio di denaro. E le devo dire sinceramente, a me è capitato anche a luglio, quando abbiamo, anche perché è una cosa che ho fatto io quindi me la ricordo piuttosto bene, lavorato per la liberazione della ragazza sudanese Maryam Ibrahim, sì, che poi è andata negli Stati Uniti, e ricordo alcune ironie fatte in quel giorno e seccamente smentite dalla stampa inglese, che diceva: vabbè, ma gli italiani si sa, lo fanno perché pagano. Non abbiamo dato neanche un centesimo. Il tema è talvolta come uno interviene con alcune autorità o cosa sa, come dire, come riesce a persuadere l'interlocutore. Noi non abbiamo mai fatto, come dire, in questo momento blitz di natura militare attiva, ma il che non comporta che noi in tutte le circostanze abbiamo messo mano al portafoglio. E devo dire che a tutt'oggi la nostra rete di conoscenza, di antenne, di intelligence in alcuni paesi è una rete invidiabile. Allora, questo ovviamente lo auguriamo per tutte le persone e i loro familiari, le persone che sono in questo momento ostaggio e i loro familiari in ovvia apprensione. Ringrazio il Vice Ministro degli Esteri Lapo Pistelli, così come Domenico Quirico, inviato della Stampa, Massimo Fini del Fatto Quotidiano e il Gazzettino Veneto. Ci fermiamo qui. Siamo con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro Peter Bescapè in regia. Darvi appuntamento a domattina 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.